Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. L'appuntamento era nel giardino della fortezza d'Abbasso. Metello non fu né il primo né l'ultimo ad arrivare. C'era di già Giannotto, c'era Lippi, che portava notizie di Aminta. Non era ferito, appena qualche graffio e delle lividure. L'avevano trattenuto in ospedale per precauzione. E siccome tastandolo quei medici, indipendentemente dagli esiti della scazzottatura, gli avevano trovato qualcosa, non si sapeva cosa né dove, comunque lo volevano studiare. Convennero che se Aminta mancava, forse non era un male, e si consolarono pensando, intanto per qualche giorno mangia e si riposa sul serio, e del resto, borbottò il decano, si è risparmiato una pena. Se tornava a casa con me avrebbe scoperto che sua moglie ha preso in braccio i bambini ed è tornata dai suoi a Ponta Ema. Ha detto alla mia vecchia d'essere stanca di questa vita e d'aver per marito un poco di buono. C'era Friani, l'anarchico. C'era il vecchio corsiero, vecchio quasi quanto Lippi, sulla sessantina, che a Metello ricordava i suoi primi passi nell'arte. E c'era il piccolo Renzoni, il quale raccontò che il nonno l'aveva buttato giù dal letto a furia ad urlare. Se non fosse che impedita la gamba, m'avrebbe accompagnato. Ho ancora le cispa agli occhi. Non vi ha dati tempo di lavarmi il viso. Presto si fu tutti quelli che ci si attendeva, coloro cioè che la sera precedente erano andati al Pignone e altri, di cui si conoscevano gli umori e che si erano potute avvertire. La più parte di città, ma alcuni anche di campagna, come Friani, che aveva dormito su quelle stesse panchine in quel giardino dove un mese e mezzo avanti, il primo giorno di sciopero, ci si era riuniti e all'arrivo di Del Buono 200 o 300 più voci avevano gridato «Viva Bastiano!» «Stamani siamo un po' di meno», disse Giannotto. Ma questo non ci deve scoraggiare. Tanti che sono della nostra idea li troveremo appena arriviamo sui cantieri. Era ormai giorno. Il cielo si era fatto rosa e chi aveva dormito all'aperto si sentì rabbrividire. Dentro la fortezza una tromba suonava la sveglia. Sveglia militari? No, non erano molti. Bastavano in due a contarsi sulle dita. Si chiamarono per nome o nomignolo, come si conoscevano, e via via che si riconoscevano non c'era nemmeno più bisogno che ciascuno denunciasse la propria qualifica. Così vennero a formare 6 gruppi, secondo i cantieri, i padroni, le imprese. Erano 21. Non volendo si erano contati 3 primi muratori, 10 muratori e gessisti, 2 mezzi muratori, 6 manovali. «Mi sembra ci sia rappresentata tutta la scala», disse Giannotto. Il decano disse «la scala, la pergola e la fame, speriamo bene». Ma anche se rappresentavano soltanto 6 cantieri, essi comprendevano le imprese più importanti e le maggiori fabbriche in via di costruzione, lasciate a mezzo da 46 giorni sotto il sole. Se fossero riusciti a far continuare lo sciopero in codesti 6 cantieri, i padroni avrebbero finito col trattare. «O almeno speriamo», concluse Giannotto. Si avvicinò a Metello e si strinsero le mani. Qualche minuto dopo, i 6 gruppi prendevano 6 opposte direzioni. Loro 4 del cantiere di Badolati si incamminarono costeggiando il Mugnone. «Speriamo bene», ripeté il decano, «la vedo molto complicata». Così dicendo, si accorse che lungo l'argine il piccolo Renzoni aveva colto una margherita e se l'era messa all'orecchio. Lo considerò, scosse la testa e disse «poveri noi». Quindi, rivolto a Metello, «non allungare troppo il passo, cipressino, e io non mica più 20 anni, nemmeno io». Metello gli rispose. «Io sì, io ce li ho!» esclamò il piccolo Renzoni. «Ma non ve li posso prestare!» Era sorridente, allegro. Il solo ad esserlo fra tanti visi scontenti e decisi. Si continuasse lo sciopero o si riattaccasse a lavorare, la sua amica bambinaia l'aspettava da mezzogiorno all'una sotto la torre della zecca e lui non sarebbe mancato. Friani gli disse «tieni di conto, 20 anni, si hanno una volta sola!» Avevano raggiunto il cavalcavia sul Mugnone. E dall'altro capo della città si era levato il sole. Lippi disse, «aspettatevi di trovare i soldati». «Anche se fosse», disse Metello, «noi dobbiamo agire lontano il più possibile dal cantiere». E per la strada gridava i scioperanti, «non più vogliamo da voi restar sfruttati, siamo liberi, siamo forti e siamo tanti, e vivere non vogliamo di carcerati, e nelle stalle più non vogliamo morire, è giunta l'ora, siamo stanchi di soffrire». La maggior parte dei lavoratori sarebbe giunta al cantiere, come al solito, risalendo la massicciata che in certo modo lo recintava. Era la via più breve, altrimenti si doveva fare il giro dei terreni coltivati e rientrare attraverso i passaggi a livello. Non c'era scopo. A cavallo della massicciata si erano battute apposta due piste per i carri e queste si riallacciavano al piano stradale di via 20 Settembre e del Ponte Rosso. Bastava si mettessero a metà strada tra i due sbocchi perché chi era diretto al lavoro gli venisse incontro. Così decisero di fare. Intanto avrebbero camminato lungo la massicciata per dare un'occhiata al cantiere e vedere come si presentasse la situazione. Renzoni Piccolo disse: «Ma se non ci ascoltano non andrà a finire come ieri sera?» Nessuno gli rispose ed egli non volle lasciargli credere d'aver paura. «È perché a mezzogiorno ho appuntamento con una persona!» Friani lo prese a braccetto. «Ti sta molto a cuore?» gli chiese. «A parte tutto, capisci, ci trovo un filone di pane con la frittata e da fumare. E poi lei starebbe in pensiero». Si buttò indietro il berretto, si grattò i capelli all'attaccatura e per primo risalì la massicciata e si accorse che il cantiere era di nuovo presidiato. «Ma da lontano giungono i soldati, avanti tutti assieme coi padroni. E contro i scioperanti disarmati s'avanzano sguainando gli squadroni. Essi non fuggono, forti nel loro ardir. I figli del lavoro son pronti anche a morir». «E come se ci sono i soldati!» esclamò. «C'è anche la forza pubblica!» I soldati, una diecina, stavano attorno alle impalancate, fuori la direzione e all'ingresso del cantiere. Qui c'erano tre uomini in borghese, vestiti di scuro. Quello al centro portava il tubino e teneva sotto braccio la mazza da passeggio. «Era in meno che ci si potesse aspettare», ripeté il decano. Ora erano tutti e quattro, l'uno accanto all'altro, in alto, sulla massicciata. Dominavano il campo, come di cima a un osservatorio o a una trincea. «C'è qualcosa di peggio», disse Metello. «Non li vedete?» Quasi sotto di loro c'era Crispi che spegneva un falò attorno al quale lui e i soldati dovevano aver pernottato. E più in là, sulla soglia della direzione, c'erano l'ingegnere e Nardini. Ma non era su questo che Metello aveva richiamato la loro attenzione. Più avanti ancora, vicino alla baracca che fungeva da dormitorio, si vedeva dell'animazione. La porta e la finestra erano spalancate. «Però», disse il decano, «anche questo ci si poteva immaginare». «Io no», disse Metello. La sua voce era cupa, carica d'amarezza e di rancore. «Non avrei aspettato che facesse giorno se me lo fossi immaginato». Essi non arrivavano a distinguere i particolari, ma le figure sì, e i gesti di quegli uomini in maniche di camicia e panciotto che si muovevano tra la finestra e la porta del dormitorio e ora si chinavano sui bidoni dell'acqua per lavarsi il viso, ora allineavano degli arnesi e si appoggiavano alla parete. Un paio, infine, si voltarono come richiamati da Nardini, il quale aveva lasciato l'ingegnere e gli faceva cenno con la mano. Uno di costoro era Olindo. E tra quelli che preparavano gli arnesi c'era il tedesco. Anche a non esserne certi, bastava la sua corporatura a farli individuare. Dopo qualche minuto non gli fu difficile riconoscerli uno per uno e capire che avevano dormito in cantiere e si erano alzati dal poco. Il che significa che erano già d'accordo con Badolati, se no Crispi non gli apriva la baracca di sicuro, disse Friani. «Allora?» chiese il piccolo Renzoni. «Ma che t'ha svegliato a fare tuo nonno stamattina?» scattò il decano, e lo sospinse perché si mettesse a camminare. Uno dietro l'altro discesero la massicciata, girarono attorno ai terreni coltivati e raggiunsero il Ponte Rosso, a una cinquantina di metri dal picchetto degli agenti e dei soldati. Nello stesso momento Nardini incollava un avviso che si sarebbe potuto leggere uguale all'ingresso degli altri cantieri, cambiavano soltanto i nomi, e che diceva: «Prima di riprendere il lavoro, i dipendenti di questa impresa sono tenuti a sottoscrivere la seguente dichiarazione. Primo, riconosco eque e legittime, e come tali accetto, le tariffe fissate dall'ACE, Associazione Costruttori Edili. Secondo, mi impegno per l'avvenire a non partecipare a qualsivoglia manifestazione promossa dalla Camera del Lavoro. La firma si mette in direzione. Chi non ha intenzione di firmare può tornare a casa. La manodopera sotto elencata, se presente, è diffidata ad abbandonare il cantiere. Salani Metello, Donnini Aminta, Lippi Ferdinando, Detti licenziamenti sono motivati per mancanza di rispetto e ingiurie rivolte al titolare dell'impresa, Salani Donnini, e per vie di fatto nei confronti di un capomastro, Lippi. La direzione. Badolati, ingegner Filippo, Firenze, 30 giugno 1902. Un'ora dopo, la manodopera di Badolati era al completo davanti al cantiere e Crispi avrebbe potuto battere la sirena. Mancava soltanto Bixio Falorni, tornata ai campi e al suo vero mestiere. Il sole sorge dietro l'incontro e scopre l'Arno all'altezza della nave. D'estate, alle 5 del mattino, il cielo è chiaro. Lungo le vie provinciali avanzano i barrocci degli ortolani diretti al mercato, con le ceste della frutta e delle verdure bagnate di rugiada. Il contado desta la città. Fuori porta c'è il casotto del Dazio, dove la sosta è obbligatoria. Passano i cacciatori, le donne coi panieri delle uova, i renaioli che raggiungono il fiume e si incrociano coi corrieri, le diligenze, gli alti carri di fieno, di fiaschi, di sacchi di farina. Le campane di San Gaggio e del Madonnone suonano il mattutino. C'è un folle in velocipede che a quest'ora ha già percorso due volte i viali di circonvallazione e le cascine. È un globetrotter, farà il giro del mondo, sono anni che si prepara. Dai, Tullio! Sei solo! Gli gridano gli stradini e quelli della gabella e i renaioli. Mandaci una cartolina da Parigi, dal Matto Grosso, dalle Russie, se ci arrivi. Al coro si uniscono i lavoratori che giungono sotto porta provenienti dai paesi. Essi compaiono camminando ai bordi della strada uno dietro l'altro. Sono facchini di piazza, carradori, infermieri e soprattutto manovali, badilanti, muratori. Il lunedì, costoro, formano una coorte. La più parte dorme sui cantieri, sei notti la settimana. Entrano in città e se dispongono di due soldi, si fermano a bere una mescita. Poi, tutti, mangeranno almeno del pane prima di salire sui ponti. Questo lo chiamano concimare lo stomaco. Certuni accompagnano il pane con dell'uva. È probabile che l'abbiano rapinata a strada facendo, saltando in un campo dove non è cintato. Sono i più giovani, ai quali non importa se c'è da attaccar briga di levata o da rischiare le fucilate dei contadini. Un grappolo, due, lo stretto necessario. La città gli viene incontro con le botteghe odorose di vino, di polenta fritta, di trippa scodellata, di schiacciata all'olio, di pan di ramerino. Escono di chiesa le beghine, è un effluvio d'incenso, è buono anche l'odore degli stallaggi e di tutti quei fiori sotto le logge. Essi scoprono sempre qualcosa di nuovo entrando in città all'inizio della settimana, con la ruota del pane nel fazzoletto colorato e indosso la biancheria pulita. Cosa? Non lo saprebbero dire. È una speranza. L'aria sembra far loro delle promesse. Gli piace la ragazza che scuote i lenzuoli al davanzale, il cane randagio che per un po' gli si mette dietro. Vicino ai cantieri si incontrano coi compagni di lavoro che abitano in città e più spesso leggono il giornale. Sono per questo più aperti di mente i cittadini? Fanno insieme l'ultimo tratto di strada e non c'è differenza, sono pari a pari. Semmai essere di città significa avere più bisogni, più tentazioni e più pensieri. Chi si ferma all'edicola a compitare il sommario della nazione, chi all'orinatoio, sputano innanzi a sé e guardano il cielo. Sarà una giornata fosa. Lo si indovina dalla compattezza del cielo e perché non c'è la brezza che di solito all'alba scende dalle colline. Essi si accorgono di essere di già sudati e non hanno ancora preso in mano gli arnesi. Quando salgono sui ponti, ogni volta, la speranza si è dileguata. Codesta mattina, nemmeno attraversando la città, essa li sorrideva. Da un mese e mezzo era un'altra vita. E per quanti proverbi non bastino a consolare, essi ci dicevano che davvero peggio non muore mai. Ancora un mese e mezzo avanti, in una mattina come quella, si sarebbero sentiti lo stesso poveri ma felici, o almeno li sembrava. Avrebbero scherzato con le ovaiole. Qualcuna ce n'era che a star lì dietro si sarebbe lasciata covare. Era già accaduto, se n'era fatto anche un gran parlare. Avrebbero dato la baia al giramondo che non si decideva mai a partire, e con gli ultimi centesimi, se li avessero avuti, bevuto mezza mescita al banco di Nocellino. Tutte cose che parevano tramontate, La sera prima erano scappati all'arrivo dei soldati. Avevano preso la strada di casa senza voltarsi indietro. Quindi, digiuni da 24 ore, avevano cenato con la panzanella, cercando di non guardare in faccia la moglie e i figlioli mentre facevano le porzioni. Avevano detto, forse domani si riattacca a lavorare. Essi non sapevano dell'arresto di Del Buono, né di Aminta finito all'ospedale, nulla, se non che alcuni non erano tornati a casa come loro. Non era tornato Olindo a Rincine, e non era tornato Friani al Galluzzo, e che di certo, in prossimità dei cantieri, avrebbe rincontrato coloro che erano decisi a continuare lo sciopero. Si sarebbe perso il lume degli occhi come ieri sera? Ormai tutto era stato detto e dimostrato, e siccome la verità non è mai una sola, questa si presentava con tre facce. C'era la verità di Aminta, c'era la verità di Olindo e del Tedesco, e c'era quella di Del Buono. Scegliere non era difficile, solo chi avesse ascoltato la ragione. Le parole del Tedesco erano state le più giudiziose e le più umane. Così erano giunti in prossimità dei cantieri, e dietro di sé, nelle case, ciascuno aveva lasciato, grande o piccina, una famiglia, i cui sguardi lo sospingevano come tanti pugnali appoggiati alla schiena. Ma arrivati al quadriglio del Ponte Rosso, e già all'alba cedeva al primo mattino, la loro decisione, qualunque essa fosse, venne a scontrarsi con una realtà inaspettata. Dapprima la notizia degli arresti, poi l'avviso che trovarono all'ingresso del cantiere, e i soldati e gli agenti, e quei loro compagni, infine, i crumiri, che li avevano preceduti al di là delle impalancate. Non si trattava più di scegliere e di sottoscrivere una resa senza condizioni. A questo, come alla presenza dei militari, erano preparati. Gli si chiedeva di riconoscere equa e legittima, insieme alle tariffe, l'incarcerazione di Del Buono, di Leopoldo e degli altri, forse la loro condanna. Quindi la chiusura della Camera del Lavoro e più ancora il licenziamento, la fame assicurata per i delegati di cantiere e per coloro che maggiormente si erano esposti nel discutere coi padroni. Ora, presi singolarmente, poteva darsi che anche di fronte a ciò, pur inghiottendo fiele, la più parte, venissero di campagna o di città, avrebbe capitolato. C'è sempre un'alba che, in certo modo, l'alba dell'orto degli olivi. Accade una e 100 volte nella vita di un uomo. Il gallo canta e non sempre ce ne accorgiamo. Ma i gruppi dei 21 li avevano fermati davanti ai cantieri. Si erano rinnovate le discussioni, e i consensi e i dinieghi. Poi, quando i caporali ebbero battuto la sirena, si erano avviati e avevano letto l'avviso. Essi leggevano, uno leggeva per tutti, e istintivamente, più che obbedendo all'ordine del sottufficiale, i soldatini si erano portati al centro dello sterrato, con l'intenzione, adesso sembrava, di accerchiarli. Allora, il timore, invece di spingerli in avanti, li aveva fatti indietreggiare. Nell'interno del cantiere Badolati, il questurino in bombetta si appoggiò al bastone che gli arrivava alla pancia e disse, «Uno alla volta, l'ingegnere vi aspetta in direzione. Chi non sa scrivere basterà metta una croce». Cavò di tasca un foglio. «Salani, Lippi, Donnini, ci sono?» La domanda cadde nel silenzio, tale da poterne sentire l'eco. «Come per un piano bello e combinato», si disse in seguito. I muratori indietreggiarono fino all'altezza della massicciata. Si disposero in fila, spiegandosi senza volere, ai due lati di Metelle e del Decano. Quei soldati guardarono il sottufficiale che allargò le gambe, come per puntellarsi sui talloni. Il silenzio divenne ancora più fondo, e fanciullescamente il piccolo Renzoni si aspettò di udire il ronzio di un moscondoro. «Non c'è nessuno di questi tre?» ripeté il delegato. Nemmeno Crispi trovò il coraggio di intervenire. Girò alle spalle degli agenti e si infilò dentro la direzione. Ora Olindo e i suoi 7 compagni avevano fatto mucchio davanti al dormitorio. Parevano assistere alla scena, uno di sull'omero dell'altro. Il Tedesco teneva le braccia conserte e masticava il suo filo d'erba d'avena. A che gioco giochiamo? Disse il delegato, ma senza gridare. La sua voce era dura, ostile, sicura di esprimere un'intimidazione. Non meridionale, ma ligure o piemontese, qualcosa di simile. Tuttavia Metello poteva dire di riconoscerla. Era la stessa voce con cui aveva avuto a che fare fin dalla sua prima esperienza di guardina, all'indomani della scomparsa di Betto. Invece di paura, metteva addosso dell'ardire. «Ho posto una domanda!» E, il bastone sotto il braccio, avanzò di qualche passo verso gli uomini fattisi a ridosso della massicciata. Fu a questo punto che Metello rispose. «Donnina è assente, si trova all'ospedale, lo dovrebbe sapere. So che ce l'avete mandato voi altri, forse proprio tu. Chi sei?» «Salani Metello, già.» «Bene, e uno. L'altro, il terzo, venga fuori. C'è?» «Sicuro che ci sono», esclamò il decano. Fece per alzarsi e Metello dove toccargli il braccio perché non aggiungesse parola. Da qualche istante, sulla soglia della direzione, era apparso l'ingegnere, anche egli scortato alle spalle da Crispi e da Nardini. Indossava la giacca d'alpagà, i calzoni di fustagno, la sua divisa. Teneva il cappello di paglia alzato sulla fronte e masticava la cicca di Toscano. Il suo volto, scuro per via del sole preso sulle aie durante la trebbiatura, aveva un'espressione anche più tetra, che non gli si era mai vista. Sembrava un toro trafitto, ma saldo sulle zampe, immobile, al centro dell'arena. «Come la volta che al campo di Marte vennero gli spagnoli a rappresentare la corrida», si disse poi. C'era da stupirsi di non vederlo armato. Non di meno, sorprese ciò che disse e il tono delle sue parole, in certo senso conciliante, mentre gli agenti stavano per posare le mani su Metello e sul decano. «Aspetti, delegato. Senta, prima che lei proceda, vorrei dirle qualcosa. Anche a lei, maresciallo, per favore». Era un tono che poteva sottintendere il desiderio di non aggravare maggiormente le cose, oppure la decisione di spingerle alle conseguenze estreme. Rientrando in direzione, dopo aver fatto strada al poliziotto e al sottufficiale, gettò la cicca, e questo, nel silenzio che era tornato a dominare la scena, sembrò un gesto di sfida. Crispi chiuse la porta alle sue spalle, poi raccolse la cicca, la spense, la ripose nel taschino e andò a sedersi su una capra di legno al fianco di Nardini. Ora i soldati, su due file di cinque, faccia alla massicciata, tenevano il pollice sulla cinghia dei fucili. Tutt'attorno pesava questo silenzio, questa immobilità e questa attesa. Al di là degli orti, dove era la ferrovia, transitò un merci. Il fischio e il fumo della locomotiva parvero durare un tempo infinito nell'aria. Quindi i sette, rimasti fino allora a ridosso del dormitorio in disparte e isolati, si mossero lentamente, col tedesco che li precedeva, per avvicinarsi a Crispi e a Nardini. Pochi passi li dividevano, e tuttavia, a metà del loro cammino, e come cogliendoli allo scoperto, si alzò un grido: «Cromiri!» Nessuno si era spostato nella lunga fila degli uomini addossati alla massicciata. Fu come se quel grido e il consenso che l'aveva seguito non fossero partiti dalle labbra di Duilli e di tutti loro. Il decano borbottò: «Non perdiamo la testa. Quei ragazzi hanno in mano un fucile e una paura addosso più grande di quella dei Crumiri e della nostra messa insieme». Ma soltanto il piccolo Renzoni, che gli era vicino, poté udirlo e sorridere, strizzando gli occhi. Loro, i Crumiri, come Duilli li aveva chiamati, si erano fermati un attimo e guardati l'un l'altro. Poi il tedesco: «Vergognatevi voi!» aveva gridato. «Non vi volete bene se agite in questo modo! Né a voi né a vostri!» Ancora nessuno si mosse e nessuno gli rispose. Gli agenti si avvicinarono, intimandogli di tacere. Essi tornarono verso il dormitorio. Olindo sembrava volersi nascondere, ora dietro questo, ora dietro quello dei suoi compagni. Seppure a distanza, non si era potuto vedere il suo viso. Metello tratteneva la lingua tra i denti, e come aveva fatto poco prima col decano, ora aveva posato la mano sul braccio di Duilli. Dall'alto della massicciata veniva giù un calessino. Lo guidava il nipote dell'ingegnere, e accanto a lui c'era il figliolo di Maddii. Lo riconobbero mentre si scostavano per lasciar passare il cavallo. «Buona lana, anche quello», commentò il decano. «Me lo ricordo bambino, quando suo padre lo portava con sé la domenica, al gioco del pallone». I due giovani affidarono il calesso a Crispi ed entrarono in direzione. «Allora il pallone non era là alla croce, era in Borgo Pinti, si chiamava la Ghiacciaia». «Lo so, Lippi, lo sappiamo tutti», scattò Metello. «Tu ci frastorni con certe storie». Ma il decano non era uomo da farsi togliere la parola. Cambiò argomento. E fu un modo di continuare il proprio discorso e di rientrare in tema. Disse: «La verità è che i padroni sono d'accordo e noi siamo divisi. Ti torna nuovo?» «No, mi torna vecchio di 60 anni, anzi, di 61. Ma non era mai successo che si fosse in tanti come oggi, tutti dalla parte buona, disse Duili. Già, disse il decano. Aveva alzato gli occhi alle impalancate, ed anche il suo pensiero deviò, e pensare che in tanti quanti siamo si sarebbe di già coperti il tetto e dato mano a un altro stabile. Erano tutti lì, invece, e si fronteggiavano. Una volta di più i padroni avevano aperto una breccia tra le loro fila. Questo il vecchio avrebbe voluto dire. Sette erano raggruppati vicino al dormitorio, ed essi, i più, di spalle alla massicciata, in una lunga fila, seduti sui talloni, su un sasso, o con le mani dietro la schiena. In mezzo c'erano i soldati, coi fucili ad armacollo, e davanti alla direzione c'erano i caporali e gli agenti. Lassù il cielo era tornato azzurro. Il sole batteva fino a metà della fabbrica in costruzione. Suonò la campana di Montuchi, e al di là dei prati si vedeva il casellante che rialzava le sbarre del passaggio a livello. Il decano disse, «Sentite, qualunque cosa decidano quei cinque là dentro, ciascuno si comporti come crede. Io ho abbastanza anni, non voglio morire con dei rimorsi». Si era levato in piedi, si appoggiava con la mano alla massicciata. «Non c'è nemmeno del buono che ci può consigliare», divagò. «A quest'ora, se li hanno messi insieme lui e Poldino, staranno a far la conta per chi deve sedersi per primo sul buriolo». Poi riprese, «Io non mi ritiro, ma avanti da arrivare al peggio, per davvero, pensateci bene tutti. Quei fucili in mano a quei figlioli mi fanno vela agli occhi». Quindi si rivolse a Metello. Tu non sei del mio parere? Pronunciati, non conviene più buttar l'olio sul fuoco. Ti viene meno la fede? Metello disse. Mi viene meno, replicò il decano, e bestemmiò. Mi viene meno l'incoscienza. E allora vai, torna a casa dal momento che sei stato licenziato. Ma anche tu sei stato licenziato come me, e questa gente, indicava col dito la fila dei compagni, che ora aveva di fronte tante facce, la più parte attente, sorprese, che cercavano di capire, questa gente, 90 su 100, se non torna sul lavoro, non lo fa perché ha in animo di continuare lo sciopero, né per tirar fuori Bastiano e Poldino dalle murate, questa forza nessuno la può avere. Se non tornano sul lavoro, non ci tornano per difendere proprio te e me e quel disgraziato di Aminta. «Io li ringrazio tutti, vi ringrazio tutti», disse. «Ma abbiamo addosso i fucili, eccoli lì, e io questa responsabilità non me la voglio pigliare. Se non trovo lavoro, vo' a fare erba e la cuocio. Sembra che ai vecchi mangiar poco faccia bene». Ora sì, aspettava che Metello lo interrompesse, magari per dargli torto. Si sarebbe aperta nuovamente la discussione, ma fu Duili a togliergli la parola. «Sta dicendo calma agli altri da stamani, calmati te!» Il decano si appoggiò di schiena alla massicciata, tra Friani e il piccolo Renzoni. «Io resto qui, ma ho voluto togliermi questo peso!» E non poté trattenersi da ripetere ancora, «Tu, Metello, non hai proprio nulla da dire?» Alessandro Benvenuti ha letto Metello, di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it